Ad alta voce. Paola Pitagora legge Il diavolo in corpo di Raymond Radiguet. Traduzione di Giampiero Bona. Marta e io eravamo nei giardini del Luxembourg. L'orologio del Senato suonò le 9. Rinunciai alla scuola. Avevo in tasca, per miracolo, più denaro di quanto può averne di solito uno studente in 2 anni. Avevo venduto i miei francobolli più rari al mercato filatelico che si svolge dietro il Guignol dei Champs-Élysées. Durante la conversazione, Marta mi aveva annunciato il suo pranzo dai suoceri, ma io l'avrei convinta a restare con me. Le 9:30 suonarono. Marta sussultò, non ancora abituata al fatto che per lei si potessero trascurare tutti i propri doveri, fossero anche di scuola. Ma non vedere la nuova stanza di ferro, non osò rammentarmi che avrei dovuto sedere sui banchi dell'Enrico IV. Restammo immobili. Questo deve essere la felicità. Un cane saltò fuori dalla vasta e si scrollò. Marta si alzò come uno che dopo la siesta, il viso ancora insonnolito, scuote i suoi sogni. Faceva con le braccia movimenti di ginnastica. Presentivo male per la nostra intesa. Queste sedie sono troppo dure, mi disse, come per scusarsi di essere in piedi. Indossava un vestito di foulard stropicciato dopo essersi seduta. Non potei fare a meno di figurarmi i disegni che l'incannucciata imprime sulla pelle. «Allora mi accompagni per negozi, visto che ha deciso di non andare a scuola», disse Marta, alludendo per la prima volta a ciò che abbandonavo per lei. L'accompagnai in parecchi negozi di biancheria, impedendole di ordinare ciò che piaceva a lei e non piaceva a me, per esempio evitando il rosa, che mi infastidisce, ed era la sua tinta preferita. Dopo quelle prime vittorie, dovevo convincere Marta a non pranzare dai suoi suoceri, non immaginando che potesse loro mentire per il puro piacere di stare con me. Studiava il modo di deciderla a imitarmi nel marinare la scuola. Sognava di conoscere un bar americano. Non aveva mai osato chiedere al suo fidanzato di portarcela. D'altronde egli ignorava i bar. Passata una mezz'ora, avendo fatto di tutto per convincerla, ormai arreso, l'accompagnai dai suoceri, in condizioni di spirito di un condannato a morte che spera fino all'ultimo momento in un aiuto sulla via del supplizio. Vedevo approssimarsi il luogo senza che capitasse nulla, ma all'improvviso Marta, battendo al vetro, fece fermare l'autista del taxi davanti a un ufficio postale. Mi disse: «Aspetti un secondo, vado a telefonare a mia suocera che mi trovo in una zona troppo distante per fare in tempo». Dopo qualche minuto, fremendo d'impazienza, intravidi una fioraia e scelsi una per una delle rose rosse di cui mi fece un fascio. Pensavo non tanto al piacere di Marta quanto alla bugia che ancora avrebbe dovuto dire quella sera per spiegare ai genitori la provenienza delle rose. Il nostro progetto fin dal primo incontro di frequentare una scuola di disegno. La bugia del telefono che ripeterà la sera stessa ai suoi genitori. Bugia. Quelle rose erano per me grazie più dolci di un bacio. Poiché, avendo spesso baciato senza gran piacere labbra di ragazzine, scordandomi di non amarle, poco desideravo le labbra di Marta. Mentre una simile complicità era rimasta per me fino ad allora un mistero. Marta uscì dalla posta raggiante dopo la prima bugia. Diedi all'autista l'indirizzo di un bar in via Donu. Si estasiava come un'educanda su sul grembiule bianco del barista, il garbo col quale egli scuoteva le ciotole d'argento, i nomi poetici o bizzarri dei miscugli. Respirava ogni tanto le sue rose rosse che si riprometteva di acquerellare. Ricordo della giornata che aveva donato. Le chiese di mostrarmi una fotografia del suo fidanzato. Lo trovai bello. Accorgendomi ormai del peso che dava le mie opinioni, spinsi l'ipocrisia fino al punto di dirle che era molto bello, ma con un'aria poco convinta, per lasciarle supporre che glielo dicessi per educazione. Cosa che, secondo me, doveva turbare l'animo di Marta e, inoltre, guadagnarmi la sua riconoscenza. Al pomeriggio fu necessario inventare il motivo della sua uscita. Il suo fidanzato, di cui conosceva i gusti, aveva del tutto affidato a lei la cura di scegliere il loro mobilio, ma sua madre voleva accompagnarla a ogni costo. Finalmente, con la promessa di non fare follie, Marta riuscì ad andare da sola. Quel giorno doveva scegliere alcuni mobili per la loro camera da letto. Benché mi fossi impegnato a non manifestare eccessivo compiacimento o dispiacere alle parole di Marta, dovetti fare uno sforzo per proseguire nel viale con passo tranquillo, adesso non più in accordo con il ritmo del mio cuore. Quest'impegno di accompagnare Marta mi pare che non facesse fortuna. Dovevo dunque aiutarla a scegliere una camera per lei e per un altro. E invece trovai il modo di scegliere una camera per Marta e per me. Dimenticai così in fretta il suo fidanzato che dopo un quarto d'ora di cammino m'avrebbero stupito facendomi presente che in quella stanza un altro stava per dormirci accanto a lei. Al suo fidanzato piaceva lo stile Luigi XV. Il cattivo gusto di Marta era un altro, propendeva piuttosto verso il giapponese. Fui quindi costretto a combatterli entrambi. Era un gioco di sveltezza. Al minimo cenno di Marta, indovinando quello che l'attirava, dovevo indicarle il contrario, che non sempre mandava a genio, con lo scopo di apparire condiscendente ai suoi capricci, passando da un mobile ad un altro, meno scostante al suo occhio. Bisbigliava. E lui che voleva una camera rosa, non osando neppure più confessarmi i suoi gusti, li attribuiva al fidanzato. Intuivo che, passati alcuni giorni, li avremmo derisi assieme. Tuttavia, non capivo bene questa arrendevolezza. Se non mi ama, pensavo, che ragione ha di cedermi, di sacrificare le mie e le sue preferenze e quelle del suo ragazzo? Non ne trovavo nessuna. La cosa più semplice era ancora di convincermi che Marta mi amava, eppure ero certo del contrario. Marta mi aveva detto: almeno lasciamogli la stoffa rosa. Lasciamogli. Solo per questa frase stavo quasi per desistere, ma lasciargli la stoffa rosa voleva dire mollare tutto. Di nuovo feci notare a Marta come le pareti rosa avrebbero rovinato i mobili semplici che avevamo scelto. E prendendo ancor più le distanze dallo scandalo, le suggerì di far imbiancare a calce i muri della stanza. Era il colpo di grazia. Durante tutta la giornata Marta era stata talmente vessata che lo accusò senza ribellarsi. Si limitò a dirmi: infatti ha ragione. Alla fine di quella giornata sfiancante ero contento del passo che avevo fatto. Ero riuscito a trasformare mobile dopo mobile quel matrimonio d'amore, o piuttosto d'amorazzo, in un matrimonio ragionato. E quale? Giacché la ragione non ci faceva proprio niente, ciascuno non vedendo nell'altro che i vantaggi offerti da un matrimonio d'amore. Lasciandomi quella sera, invece di evitare ormai i miei consigli, essa mi pregò di aiutarla il giorno seguente a scegliere il resto dei suoi mobili. Glielo promisi, ma a condizione di giurare che mai lo avrebbe detto al fidanzato, poiché l'unico motivo che col tempo gli avrebbe fatto accettare quei mobili, se sentiva un po' d'amore per Marta, era il pensiero che tutto venisse da lei, dal suo consenso, che presto sarebbe stato comune. Tornato a casa, mi parve di leggere nello sguardo di mio padre che già sapeva della mia scappatella, Naturalmente non sapeva niente, come avrebbe potuto capirlo. Beh, Jacques si abituerà presto a questa stanza, aveva detto Marta. Coricandomi, mi ripetevo che se lei sognava del suo matrimonio prima di addormentarsi, doveva quella sera figurarselo completamente diverso dall'idea che si era fatta il giorno precedente. Da parte mia, quale mai fosse l'epilogo di quest'idilio, ero ben vendicato in anticipo del suo Jacques. Pensavo alla notte nuziale in quella camera austera, nella mia camera. Domani mattina spiavo per strada il postino che doveva portare una lettera di assenza. Me la consegnò, la intascai, ficcando le altre nella buca del nostro cancello. Procedimento troppo semplice per non usarlo d'abitudine. Saltare le lezioni per me voleva dire essere innamorato di Marta. Mi sbagliavo. Marta altro non era che il pretesto per marinare la scuola. E la prova è che dopo aver assaporato in compagnia di Marta gli incanti della libertà, volli poi gustarla da solo e farne dei discepoli. Presto la libertà diventò per me una droga. L'anno scolastico stava per finire e vedevo con terrore che la mia pigrizia sarebbe rimasta impunita. Io, che mi auguravo l'espulsione dal collegio, dramma che alla fin fine concluse quel periodo. A forza di vivere con l'idea fissa su un'unica cosa, bramandola ardentemente, non noti più il crimine dei tuoi desideri. Certo, non intendevo dare un dispiacere a mio padre, eppure speravo proprio nella cosa, la più spiacevole per lui. Le lezioni erano sempre state una tortura per me. Marta e la libertà erano riuscite a rendermele insopportabili. Mi resi conto che se amavo meno René, era semplicemente perché mi rammentava un qualcosa del collegio. Soffrivo. E questo crucio mi rendeva persino malato fisicamente, all'idea di ritrovarmi l'anno seguente, in mezzo alle scempiaggini dei miei compagni. Per sua disgrazia, avevo purtroppo condiviso con René il mio errore, sicché quando, meno furbo di me, egli mi annunciò di essere stato espulso da Lille-Coquattro, credetti di esserlo stato io. Dovevo comunicarlo a mio padre, che avrebbe certo gradito saperlo da me prima della lettera del censore. Missiva troppo grave da farci su cavilli. Si era di mercoledì. L'indomani, giorno di vacanza, aspettai che mio padre fosse a Parigi per prevenire mia madre. Più che la notizia, l'allarmò l'idea di 4 giorni di tensione in casa sua. Poi me ne andai in riva alla Marna, dove Marta aveva detto che forse mi avrebbe raggiunto. Non c'era. Meglio così. Il mio amore avrebbe tratto da quell'incontro una forza maligna con la quale avrei potuto in seguito oppormi a mio padre. Invece, sotto il temporale scoppiato dopo una giornata vuota e triste, rientravo a testa bassa come si conveniva. Rincasai poco dopo l'ora abituale in cui si trovava mio padre. Dunque egli sapeva. Passeggiavo in giardino in attesa che mio padre mi chiamasse. Le mie sorelle giocavano in silenzio, subodoravano qualcosa. Uno dei miei fratelli, eccitatissimo dal temporale, mi disse di andare nella stanza dove mio padre si era accomodato. Grida, minacce, avrebbero in me provocato la ribellione. Fu peggio. Mio padre taceva. Poi, senza collera, con una voce persino più dolce del solito, mi disse: «Ebbene, che intendi fare adesso?» Le lacrime, che non riuscivano a scendermi dagli occhi come uno sciame d'api, mi ronzavano nel cervello. Contro un volere avrei potuto opporre il mio, ancorché impotente, ma al cospetto di simile dolcezza non pensavo che a sottomettermi. «Ciò che tu mi ordinerai di fare.» «No, non insistere a mentire. Ti ho sempre lasciato agire come volevi. Continua. Senza dubbio farai in modo che me ne penta.» Nell'estrema giovinezza siamo troppo propensi, come le donne, a credere che le lacrime risarciscano ogni cosa. Mio padre non chiedeva neppure delle lacrime. Davanti alla sua generosità mi vergognavo del presente e del futuro, giacché sentivo che qualsiasi cosa gli avessi detto avrei mentito. Almeno questa bugia lo consoli, pensavo, in attesa di essergli causa di nuovi affanni. O invece no, cerco ancora di mentire a me stesso. Ciò che volevo era un'occupazione poco più faticosa di una gita e che lasciasse come questa al mio spirito la possibilità di non stare un minuto solo lontano da Marta. Finsi di voler dipingere e di non aver mai trovato il coraggio di dirlo. Ancora una volta mio padre non disse di no, a condizione che continuassi a imparare a casa quello che avrei dovuto imparare a scuola, ma libero di dipingere. Quando i legami non sono ancora saldi, basta che un appuntamento vada a monte una volta per perdere di vista qualcuno. A forza di pensare a Marta, ci pensavo sempre di meno. La mia mente agiva come agiscono gli occhi sulla tappezzeria di carta di camera nostra. A forza di guardarla, non la vedono più. Fatto incredibile. Studiavo persino con entusiasmo. Non ero stato bugiardo come temevo. Quando qualcosa, pervenutami da fuori, mi costringeva a pensare meno distrattamente a Marta, vi pensavo senza amore, con la malinconia che provi per quello che avrebbe potuto essere. Pazienza, mi dicevo, sarebbe stato troppo bello. Non si può nello stesso momento scegliere il letto e dormirci dentro. Di una cosa si meravigliava mio padre. La lettera del censore non arrivava. A tal proposito mi fece la prima scenata, convinto che avessi sottratto la lettera e che in seguito avessi finto di annunciargli spontaneamente la notizia, ottenendo così la sua indulgenza. In realtà questa lettera non esisteva. Mi ero creduto espulso dal collegio, ma mi sbagliavo. Inoltre mio padre non comprese nulla quando all'inizio delle vacanze ricevemmo una lettera del provveditore. Domandava se ero ammalato e se doveva iscrivermi per l'anno successivo. Finalmente, la gioia di soddisfare mio padre un po' colmava il mio vuoto sentimentale, perché se non pensavo più di amare Marta, la ritenevo almeno l'unico amore che fosse stato degno di me. È come dire che l'amavo ancora. In questo stato d'animo, allorché alla fine di novembre, un mese dopo aver ricevuto un biglietto di partecipazione al suo matrimonio, trovai rincasando un invito di Marta che cominciava su questo tono. Non capisco niente del suo silenzio. Sicuramente ha scordato di aver scelto i miei mobili. Marta abitava a Jeux. La sua via scendeva fino alla Marna. Lungo ogni marciapiede seguivano più o meno una dozzina di ville. In realtà Marta alloggiava soltanto nella parte alta, la parte bassa era condivisa dai proprietari e da una vecchia coppia. Quando arrivai per la merenda, era già notte. Solo una finestra senza anima viva rivelava la presenza del fuoco. Nel vedere quella finestra illuminata da fiamme ineguali, come onde, credetti a un principio d'incendio. Il cancello del giardino era socchiuso. Mi stupì una simile negligenza. Cercai il campanello, non riuscii a trovarlo. Infine, salendo i 3 gradini del terrazzino, mi decisi a bussare contro i vetri del pian terreno di destra, dietro i quali sentivo delle voci. Una vecchia aprì la porta. Le domandai dove abitava la signora Lacombe. Era il nuovo cognome di Marta. «Da sopra!» Salii le scale al buio incespicando, urtando e morendo di paura che fosse accaduta una disgrazia. Bussai. Marta venne ad aprirmi. Per poco non le saltai al collo come quegli sconosciuti o quasi appena scampati a un naufragio. Non le cacciai nulla. Certamente mi trovò un'aria smarrita, perché innanzitutto le domandai per quale ragione ci fosse il fuoco. Perché aspettandola avevo acceso nel caminetto del salotto un fuoco con legno d'ulivo e al suo riflesso leggevo. Entrando nella cameretta che adibiva a salotto, poco ammobiliata, che le tinte e gli stessi tappeti soffici come una pelliccia animale rimpicciolivano al punto di farla sembrare una scatola. Mi sentii tutti insieme felice e infelice come un drammaturgo che guardando la sua commedia vi scopre troppo tardi dei difetti. Marta si era di nuovo distesa davanti al caminetto, attizzando la brace e badando di non mischiare alcuni pezzi neri alla cenere. Forse lei non ama il profumo dell'ulivo. I miei suoceri ne hanno fatto venire per me una provvista dalla loro proprietà nel Midi. Marta sembrava scusarsi di un dettaglio introdotto da lei in quella stanza che era opera mia. Forse questo elemento minava una totalità che lei non capiva bene. Al contrario, quel fuoco mi incantò, anche nel vedere che lei, come me, aspettava di sentirsi scottare un fianco per girarsi dall'altro. Il suo volto, tranquillo e serio, non mi era mai apparso più bello che in quella luce selvaggia. Quel bagliore che non si espandeva nella stanza serbava tutta la sua forza. Non appena te ne allontanavi, era buio e urtavi contro i mobili. Marta ignorava la malizia, il suo godimento rimaneva grave. Accanto a lei il mio spirito a poco si stordiva, la trovavo differente. Era che adesso, sicuro di non amarla più, cominciavo ad amarla. Mi sentivo incapace di calcoli ed intrighi, di tutto ciò che da sempre, anche in questa occasione, credevo fosse indispensabile all'amore. Tutto a un tratto mi sentivo migliore. Questo brusco cambiamento avrebbe aperto gli occhi a chiunque altro. Io non mi resi conto di essere innamorato di Marta. Invece ci vedevo la prova che il mio amore era morto, che una bella amicizia lo rimpiazzava. Questo lungo piano d'amicizia mi fece subito ammettere quanto un sentimento diverso sarebbe stato colpevole, lesivo verso un uomo che l'amava, al quale lei doveva appartenere e che non poteva vederla. Tuttavia, altri fatti avrebbero dovuto illuminarmi sui miei sentimenti veritieri. Pochi mesi addietro, quando incontravo Marta, il mio preteso amore non mi impediva di criticarla, di trovare brutto la maggior parte di ciò che essa trovava bello e puerile il più delle cose che diceva. Oggi, se non avevo il suo stesso parere, mi davo torto. Dopo la rozzezza dei miei primi desideri, era la dolcezza di un sentimento più profondo che mi tradiva. Non mi sentivo più in grado di mettermi a far niente di quello che avevo deciso. Cominciavo a rispettare Marta, perché cominciavo ad amarla.